l'anime è cattivo talvolta. Oh no. Ditelo voi, cazzo. Ma che cazzo? Ditelo voi, cazzo. Non piace. Ditelo voi. Che cazzo? Pompa questa roba nelle casse. Il suono filtra nelle orecchie e grida fuori classe. La terra era dritta, ma ha spostato l'asse. Anche Cicciolina era santa prima che l'entrasse. Se ami questa roba dimmi grazie. Vi dono questa musica che siete tra le grazie. Tranquille, rimarrete sazie. Vi informo solamente con mucchio di notizie. Rimo acqua santa, le dico scusi senta. Se uno spinge questa roba, cazzo fa commenta. Io non la commento se lei lo fa violento. Se lei le piace altro, allora ascolti altro. Che cazzo devo fare? Mi sparo? No, fatto è chiaro. Ho fatto del mio meglio, caro. Non mi fermo mai perché oramai ogni giorno imparo. Claro, chiaro. E che cazzo non capisco? E che cazzo mi stupisco? Io non piaccio, ti sei visto? Oh, che cazzo, porco Cristo. E che cazzo non capisco? E che cazzo mi stupisco? Io non piaccio, ti sei visto? Oh, che cazzo, porco Cristo. Pompa questa roba nelle casse. Il basso fa vibrare la ciccia delle grasse. E più la ciccia vibra, più sembra che parlasse. Non riesco a stare fermo, sto enemy mi piace. Merda, sono lusingato, ciccia grazie dell'appoggio. Con tutta quella ciccia scialla il mio supporto. Vita bella, raro. Sto una merda, dammi mano. C'ho la sfiga, tocco fero. La fortuna, c'ha lo scavo. Sempre immerso nei pensieri, penso verso desideri. Quali uguali sogni veri, in giorni neri. Dove speri che qualcosa vada bene. Ma poi dentro infine non ci credi. E se ci credi, non ti ci vedi. Felicemente tristi, scriviamo testi. Più insisti, più non esisti. Qui ti schiacciano, non resisti. Provi a vendere dischi, ma poi sei primo che i tuoi colleghi non gliel'acquisti. E che cazzo non capisco? E che cazzo mi stupisco? Io non piaccio, ti sei visto? Oh, che cazzo, porco Cristo.